Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Il guado di metà settimana è il momento più difficile. È difficilissimo, Drago, perché sei lontano sia dal weekend scorso che dal prossimo. Ah, vabbè. Hai capito? Però certo che se continui a vivere in funzione del venerdì sera, per te sarà durissima, perché la settimana è composta da un sacco di giorni, oltre al weekend. Quindi... anche il sabato pomeriggio mi piace. Vabbè, però devi fartene una ragione. Sono più i giorni che non ti piacciono che quelli che ti piacciono. Se, però sei noioso, Drago. Sempre, sì. Non hai uno di quei tuoi argomenti molto interessanti che tiri fuori tutti i giorni, certo. Tranne il venerdì sera e il sabato pomeriggio? Certo che ce l'ho. E allora vai. La questione dell'asilo nido per i rifugiati politici è sempre all'ordine del giorno, se ne parla continuamente. Certo, asilo nido. Abbiamo sentito quel che ne pensava l'altra volta il bambino presidente Gheddafi, e anche se non c'era niente da ridere, lui ci rideva sopra. Per quanto riguarda l'asilo politico, gli africani non hanno diritto all'asilo politico. Dicono solo bugie e menzogne. Questa gente vive nelle foreste, nel deserto, e non hanno problemi politici, perché lì non ci sono né partiti né elezioni. Perché date così tanta importanza alla questione dell'asilo politico? Quante persone possono avere il diritto all'asilo politico? Milioni? Allora che cosa facciamo? Facciamo arrivare milioni di persone in Europa? È una cosa che fa ridere. Il bambino Bersani ha subito contrattaccato durissimo a tempo di rap. Asilo nido. Allora qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Sì, Drago, però scusa, il bambino Gheddafi prima parlava di asilo politico, il bambino Bersani parla di asilo nido. Ma è la stessa cosa. Ma sì, si parla di diritto di asilo nido per i neonati che scappano dalle guerre, dalle dittature, eccetera. E il bambino premier Berlusconi invece che fa? Cosa fa? Lui oscilla. Oscilla, oscilla da una posizione all'altra e non si capisce niente. Un momento è lì che piange per la sorte dei poveri rifugiati che arrivano sulle nostre coste, al tempo del governo Prodi. Vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso 3 figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Però è triste, vai. Sì. È da piangere anche però, a me. Però adesso pensa che quando c'è lui al governo fa il duro, invece, per far contenti i bambini, i suoi amici, tipo il bambino Boss, il bambino Gheddafi. La sinistra, con i suoi precedenti governi, aveva aperto le porte ai clandestini provenienti da tutti i paesi. Quindi l'idea della sinistra era ed è quella di un'Italia multietnica. La nostra idea non è così. Hai sentito? Come fa a dire certe cose? Piangeva fino a un attimo prima. Ma è colpa del bipolarismo, no? Dici che la causa di questi cambiamenti continui deriva dal nostro sistema elettorale bipolare. Ma no, dalla sindrome bipolare di cui soffre il bambino premier, no? Ci vorrebbe un po' di litio. Non è mica una batteria del cellulare, Sono triste. E ora, bambini, ricreazione! La ricreazione del mercoledì. La ricreazione del mercoledì è una specie di climax o climax un po' deludente, no? Sai quando stai bene, però non proprio bene bene. No, guarda, non so niente di climax, nemmeno di climax, tantomeno di climax deludenti. E come mi sento oggi, Drago? C'è la ricreazione, ma è tutto inutile perché è solo mercoledì. No, ma che è angoscia, lontano, che angoscia, cappa. Guarda, è più allegro il bambino Alberto Magno. Cosa c'entra Alberto Magno? Alberto Magno? Semmai Alessandro Magno o Carlo Magno. Io di Alberto Magno non ho mai sentito nessuno. Ma come, dai, Alberto Magno, detto anche Doctor Universalis. Ma cos'è? Non è un personaggio di Martin Mister, non è un personaggio di Tex Willer, ma era un grande teologo del XIII secolo. Ma quello è il tempo delle mummie, io non, che ne so io. Come ti va, bambino Albertino? Ma come volete che vada in un mondo di ingiustizia? Ah, ecco, sembrava che fosse sorridente. Normale, no, oggi non è niente. Ormai qui i meriti non vengono più riconosciuti. A casa ci insegnano che siamo tutti uguali, Sordentona, qui all'asilo ci insegna che siamo tutti uguali. Poi sui libri dicono che ci sia scritto che siamo tutti uguali. Ma come dicono? Non li leggi tu i libri? Ma io non so leggere. Ma no. I libri che ti danno da leggere non li leggi? Ah, sì, sì, li legge. No, bugia che non sai leggere. Tu sai leggere, sai anche scrivere. Gli SMS li leggi, li scrivi. Vabbè, allora, i libri di Moccia, insomma. Allora, chiariamo. Gli SMS sono una cosa e i libri un'altra, no? Vabbè, i libri di Moccia sono tipo gli SMS. E poi comunque sta fregnaccia che siamo tutti uguali, alla fine della fiera scopre che non è vero. Vabbè, ci sono casi e casi. Diciamo che in un mondo ideale, cioè in un mondo perfetto, non ci sono differenze tra gli uomini, cioè che siano belli, che siano brutti, bianchi o neri, ricchi o poveri, sono sempre prima di tutto esseri umani, no? Ah sì? E allora cosa mi dite del bambino Alfano? Chi? No, come? Il bambino Angelino Alfano? Ah, il bambino Angelino, Perché? Cosa ha fatto? Ah, io non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui o chiederlo a tutti quelli che da un po' di tempo a questa parte hanno cominciato a tessere delle lodi, Lodo Alfano di qui, lodo Alfano di là. Tutti i giorni sto lodo Alfano. Se tutte le lodi se le becca lui, allora noi bambini qualunque siamo dimenticati. Vabbè, ma si vede che il bambino Angelino è uno che si impegna più degli altri. Succede con i bambini non troppo dotati, cioè sopperiscono alla mancanza di intelligenza, di brillantezza con un impegno extra. No, ma può anche succedere, no? Questo... Cioè il contrario di è bravo ma non si impegna. Esatto, si impegna ma non è bravo. Vabbè, però dà dei risultati, no? Vabbè, tutti lo allora odano. Io vorrei che ogni tanto capitasse qualcuno che dice lodo Alberto, no? Non sempre lodo Alfano, lodo Alfano. Vabbè, l'invidia è una brutta bestia, bambino Umberto. No, Umberto è un nome da vecchi, Alberto. Vabbè, ma non guardare quello che fanno gli altri, impegnati affinché qualcuno ti possa lodare. Questo è l'unico insegnamento che mi sento di darti. Sì, bravo. Tu sei sempre bravissimo a dare consigli agli altri, Cosa ti costa? Vabbè. No, perché qui ogni tanto ci sono le mode, Per un certo periodo lo davano sempre il bambino Mondadori. Lodo Mondadori, lodo Mondadori, lodo Mondadori. Poi è arrivato un bambino che si chiamava Maccanico. Ah, beh, sì. Allora certo. Giù le lodi al Maccanico. Lodo Maccanico, lodo Maccanico. Lodo, lodo Alberto, Maccanico. Lodo Alberto mai. E adesso c'è la moda di lodare Alfano, no? E lodo Alfano, lodo Alfano, e giù con lodo Alfano, Sono le mode. E mai una volta, mai? Chi si è capitato a me? Vabbè. Potremmo chiamarti bambino Alfano. Così, meno si risolve. Alfano. Era bambino Alfano. Io voglio essere riconosciuto. Alfano Romina. Alberto. Alfano, infatti. Ma che Alfano? Alberto. Vabbè, ma tu sei sempre qui a protestare, a recriminare. Sei un ribelle, per forza che nessuno ti loda. Di solito vengono lodati quelli un po' più, come dire, un po' più domestici. Magari. Invece bisogna leccare. Leccare le scarpe e aspettarsi la ricompensa. Come un cane. Ma no, vabbè, dai, bambino Roberto, su, non fare così. Ma Roberto comunque... chi? Ma almeno il nome è giusto una volta. Ma tu cadi troppo spesso preda di ossessione. È vero, lascia stare. Adesso sei adesso sei ossessionato dal povero bambino Alfano. Non ti ossessionare, lascia andare. Ma sono gli altri che sono ossessionati. Tutti a dire lodo Alfano, lodo Alfano. Sì, ma... E quello lì non è un'ossessione. Vabbè, ma come ti abbiamo già detto, tu stai sereno e impegnati. Vedrai che le lodi arriveranno anche per te. Sarà come dici tu. Comunque una cosa è certa: nel mondo non siamo tutti uguali e l'ingiustizia regna sovrana. Ma no, il bambino Alfano è il ministro della giustizia. Ministro dell'ingiustizia dovreste dire. Senza fare un tubo lo lodano tutti. Ma non è esattamente così, dai. Ma come no? Cosa ne sa lui di giustizia? È come mettere il bambino Bin Laden alla protezione civile. Ma sai che casino? Ma pensa un po' a quelli a Terzigno, no? Che si vedono arrivare Bin Laden con la tutina Italia come quella che metteva Bertolaso. E lì c'è l'impatto, C'è l'impatto mediatico. Arriva Bin Laden, questi qui diranno, sarà pure uno... Però ci sarà pure un fare, no? Questo qui ha la mano pesante. Quindi dice, bisogna risolvere questo problema? Allora lo risolviamo subito. Poi ragazzi, e poi arriva tutti quelli, questi sbattono la mano in testa, quelli, sono fanatici. Ma se gli dici la missione è la spazzatura, e quelli giù con la spazzatura, si battono la testa e vanno, e lì in due giorni tutto finito, non in tre giorni, come ha detto quel pirla, che poi alla fine la spazzatura è ancora lì. Torniamo domani e mandate le vostre lodi a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.